Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suarez in redazione, Fabio Cantadori in regia. È appena iniziato l'Europeo dell'Italia della pallavolo a Istanbul, in campo contro la Bulgaria, 9-8 per i nostri avversari. Siamo solo alle prime battute di questo incontro, primo set, poi vi tengo aggiornati nel corso di quest'ora di programma insieme, in cui parleremo, oltre che di pallavolo, per flash di cronaca appunto, di colpi di spugna. L'avete sentito nel giornale radio, il primo è arrivato da Fininvest, anticipato da Galliani sulle voci circa la futura cessione, l'imminente cessione, l'eventuale cessione, parlatene come volete, del Milan da parte di Berlusconi ad altri acquirenti, magari Gheddafi, scrive Repubblica. Poi ne parliamo anche insieme, 800 24 00 24, il numero verde. Intanto sono arrivate le smentite, prima quella di Galliani che dice le dichiarazioni a me attribuite, riportate tra virgolette, sono assolutamente false per quanto riguarda la vicenda cessione del Milan, per quanto riguarda la vicenda biglietti ai tifosi, eccetera. Poi poco fa, l'avete sentito nel giornale radio, 13.44, la smentita di Fininvest in relazione a nuove indiscrezioni di stampa. La Fininvest ribadisce ancora una volta che non esiste alcuna ipotesi di cessione di quote nella società del Milan. Lo afferma la finanziaria in una nota. Ne parliamo dopo. Adesso voglio parlare di un altro argomento, tanto per cominciare, tanto per aprire, riguardo un sogno, perché è bello vedere quelli che si realizzano, ma è anche crudele vederne un altro che va in pezzi. Stiamo parlando di Giancarlo Fisichella e di Luca Badoer, che sono i poli opposti di questo venerdì dello sport, ma lo sport per l'appunto è così, certe volte realizzi il sogno, certe volte è crudelissimo. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Fisico allora, alla Ferrari dunque, e Luca Badoer che si deve arrendere nonostante subito dopo l'ultimo Gran Premio ha detto vabbè, adesso sono pronto, Monza è la mia pista, sogno di guidare ancora lì. Invece no, ci sarà Fisichella. Beh, diciamo che la scelta di Badoer è stata secondo me piuttosto infelice, perché il collaudatore, proprio per le caratteristiche del suo modo di guidare, non è mai velocissimo come un pilota invece che sfrutta la macchina fino ai limiti di rottura. Il collaudatore procede per gradi cercando di capire quali sono le carenze in modo da poterle correggere. Vero è, ne abbiamo parlato anche recentemente, che Ferrari diceva io amo Villeneuve perché tira come disperato e rompe subito, così ho capito qual è il pezzo che si deve riparare. Però, come dico, la mentalità del collaudatore non può essere quella del ritmo agonistico, quindi quella scelta lì secondo me non era felice. A quel punto avrei preferito, se parlavamo di collaudatori, Genet, che è collaudatore anche lui Ferrari e che aveva appena vinto la 24 ore di Le Mans, che è una corsa estremamente impegnativa anche sotto il profilo fisico. Comunque, al di là di questo, diciamo invece che la scelta di Fisichella è più che ragionevole. Diciamo che è una scelta felice per un pilota che per tanti anni si è dovuto difendere dalle critiche sulle sue capacità, sulle sue prestazioni, perché era sempre al volante e di vetture inferiori rispetto alla media di quelli che erano in pista. Appena c'è stata l'occasione, l'ultima è nella gara appena svolta, si è subito dimostrato un pilota veloce indiscutibilmente, molto molto sensibile e con una guida molto delicata, quindi con una macchina che non conosce abbastanza bene io credo che riuscirà a impadronirsi abbastanza presto. Quanto alle possibilità agonistiche, si tratterà di vedere, perché il problema è il solito: sale sulla macchina che non conosce, con tante caratteristiche diverse dalla Force India che ha guidato fino all'altro giorno, quindi è evidente che non può pretendere di far subito molto. Però, come dice anche un sondaggio in corso adesso sulla Gazzetta, il 50% ritiene che possa andare a punti. Questo mi sembra un discorso ragionevole. Sì. Quando la possibilità di salire sul podio, beh, questo credo che sia possibile se c'è qualche problema in alcune delle squadre di vertice. Non dimentichiamoci comunque a Monza la Ferrari avrà il vantaggio del Kers, che sì, sicuramente, come è stato un vantaggio per Raikkonen nei confronti di Fisichella proprio nell'ultima gara. Adesso il Kers ce l'avrà Fisico, non dovrà più subirlo da Raikkonen come era successo appunto a Spa. Intanto Italia 12, Bulgaria 11 nel debutto degli europei di pallavolo. Mario, italiani in rosso, storia sempre abbastanza tormentata. Sì, beh, ma non dimentichiamoci che l'origine lontana era quella di Ferrari che fin dal tempo in cui ci fu l'incidente della Mille Miglia, quando venne sospesa la Mille Miglia, dopo il 57, venne accusato di crimini estremi, diciamo così, rischiò addirittura a un certo punto di avere delle azioni giudiziarie perché era successo questo incidente in cui erano morte tante persone. E ancora peggio quando si trattava di incidenti che riguardavano i piloti italiani, cioè la stampa italiana e l'informazione italiana in genere è così passionale, evidentemente in un paese dove la quantità di tifosi è credo pari all'80%, che è evidente che ogni più piccolo problema che riguarda un pilota italiano diventa un problema invece gigantesco. Sì. Non dimentichiamoci che in Inghilterra, ai tempi di Stirling Moss, i risultati della corsa venivano dati con un piccolo trafiletto il giorno successivo, se non due giorni dopo. Da noi c'erano quattro testate sportive e si riempivano tre pagine, quattro, ancora adesso. Quindi è logico che Ferrari sia sempre stato restio a prendere i piloti italiani e quindi l'eredità Montezemolo fu un po' anche questa. Infatti quando Montezemolo si diceva ma perché non prendi un pilota italiano, diceva datemene uno che va forte come certo. Gli altri, noi preferiamo l'italiano. Certo, Mario, futuro un po' incerto però in casa Ferrari, quantomeno adesso Fisichella guiderà queste cinque corse, però rimarrà anche l'anno prossimo come terzo pilota, come pilota di riserva. Badoer e Genet potrebbero anche rimanere come collaudatori. Tramonta definitivamente il sogno, l'ipotesi Schumacher con la terza macchina per l'anno prossimo. Massa torna, ma non si sa esattamente quanto, con certezza, eccetera. Insomma, ci sono diversi dubbi da chiarire sul fronte futuro, sul fronte della prossima stagione. Allora, Mario, la Ferrari e il futuro, come la mettiamo? E la mettiamo prima di tutto che bisogna vedere Massa in che condizioni è, quindi purtroppo si allungano i tempi fino a quando non farà delle prove ben precise in pista non si potrà sapere se ha recuperato completamente. Questo per quel che riguarda Massa. Conseguentemente bisognerà vedere se e che cosa si farà per Raikkonen, tenuto anche presente che era stato un ballottaggio adesso con Fisichella, c'è Libero Kubica che è un altro pilota che veniva molto apprezzato, sì. Non toccando il discorso di Alonso che viene considerato oggi il prossimo numero uno. Senti, prima di chiudere ti vorrei solo dire che da 17 minuti si sta girando sul circuito di Misano per il Gran Premio di MotoGP, sì. Con Lorenzo che è davanti a Pedrosa, Rossi, Dovizioso e Edwards con i tempi 1.36.6. Tieni presente che i tempi di Stoner e Rossi l'anno scorso aveva vinto, erano attorno a 1.33-1.34, quindi già abbastanza veloci. E direi che ti ho detto tutto. Sì. Sarà una corsa molto interessante. Intanto i bookmakers ho visto che hanno riaperto le scommesse sul titolo mondiale, che erano state frettolosamente chiuse dopo le vittorie di Valentino Rossi, ora riaperte dopo l'ultima corsa. Mario, nel weekend ne parliamo. Grazie, a presto. Buona giornata Mario Poltronieri, appuntamento nel weekend naturalmente. Sì, ve lo ricordo, il sabato abbiamo ripreso da sabato scorso le nostre frequentazioni pomeridiane dalle 17 alle 18 e poi la domenica saremo qui dalle 17 alle 19 anche per commentare quello che avrà fatto l'Italia di Lippi. A proposito di Lippi c'è una sua dichiarazione di pochi istanti fa. Dice: di noi non frega niente a nessuno. In settimana si è parlato di Cassano, di Mourinho, di tutto meno che di come giochiamo e della gara con la Georgia di domani. A me questo non sta bene, anche perché la partita contro la Georgia e quella di mercoledì contro la Bulgaria a Torino potrebbero già darci praticamente il visto per i mondiali in Sudafrica. Queste dichiarazioni tra il piuttosto serio e l'un pochino faceto di Marcello Lippi, che comunque è chiaramente infastidito dalle voci di questi giorni. A proposito di Bulgaria, ci stiamo già giocando contro. Italia 18, Bulgaria 17 nel debutto degli azzurri e della pallavolo agli europei turchi. Si gioca ad Istanbul. C'è anche di pochi istanti fa una dichiarazione di Andrea Pirlo che dice: speriamo di no, ma su cosa? Naturalmente su questo. Io non credo davvero che Berlusconi venda il Milan, dice Pirlo. Sono per le grandi famiglie italiane come i Moratti, gli Agnelli, i Berlusconi. Non voglio trasformare la Serie A in una Premiership con tanti padroni stranieri. non credo che davvero Berlusconi venda al Milan. Queste le dichiarazioni di Andrea Pirlo, vi abbiamo già riportato in apertura quelle invece ufficiali della Fininvest, che ha smentito tutto. Parlavamo di colpi di spugna su queste notizie. C'è anche Galliani, che aveva preceduto la Fininvest, cominciando a smentire la parte che gli competeva, quelle dichiarazioni tra virgolette. Poi, se volete, ve le leggo. Andrea Schianchi, inviato alla Gazzetta dello Sport. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Penso che dovremmo farci l'abitudine, no, su questi rumors sulla vendita del Milan, che continueranno a tornare in maniera ciclica, credo, no? Penso di sì, perché insomma, che ci sia qualcosa sotto lo testimoniano queste voci che continuano a circolare. Una volta sono gli arabi, una volta è Gheddafi, una volta è un petroliere magari venuto dall'est. Secondo me, insomma, bisognerà farci l'abitudine a questo e anche alle smentite della Fininvest, ovviamente. Su Milan in vendita tu ci credi brutalmente? Ma io credo che il Milan non possa più andare avanti così, cioè senza investimenti. Non credo che questa sia una politica adatta. Penso che se una società vuole rimanere ad altissimo livello per quanto riguarda l'Italia e soprattutto per quanto riguarda l'Europa, debba chiaramente mettere sul piatto degli investimenti che non necessariamente sono gli investimenti fatti dal Real Madrid, ma sì, sono comunque superiori a quelli che invece sono stati fatti quest'anno, quando è stato comperato soltanto Huntelaar. Andrea, c'è un punto però su cui non si può discutere, tu lo sai meglio di me. Non conviene non sottovalutare, e di sicuro Berlusconi non lo farà, perché insomma, mente attento a queste cose, il contraccolpo mediatico e d'immagine che un Milan perdente gli può portare. Io credo che questo sia un punto importante. Sì, credo che sia un punto importante, ma credo che ormai, per quanto riguarda la posizione, diciamo, politica di Berlusconi, il Milan possa portargli o sottrargli pochi voti. Perché lo abbiamo visto soprattutto con la vittoria elettorale alle europee, che è venuta 5 giorni dopo l'ufficializzazione della cessione di Kakà, cioè del giocatore più pregiato del parco del Milan. Quindi credo che il Milan a livello politico per Berlusconi e per i sondaggisti conti molto meno di quello che contava prima. Non c'è dubbio che a livello personale, quindi di immagine personale, non è bello essere il patron di una squadra che prende 4 papine nel derby, come è successo, ma per evitarlo sarebbe sufficiente fare degli acquisti mirati, ripeto, senza spendere i soldi, secondo me esagerati, del Real Madrid. Ma si può ugualmente fare delle cose con senno e con criterio. Certo, se si continua a dire, come fa il nostro Presidente del Consiglio, che forse era abituato al calcio degli anni 60 quando allenava l'Edil Nord, che Ronaldinho può stare al centro del Milan e sarà quello che farà la differenza, allora forse siamo in un altro mondo. Ma ho l'impressione che, insomma, debba digerirlo anche lui, Ronaldinho, perché c'era lì, lo paga, nessuno ovviamente glielo andrà a prendere, glielo andrà a portare via. Dunque, in qualche modo il Milan dovrà trovare il modo di limitare i danni, se me lo permetti. Galliani, tra le varie smentite di oggi, ha smentito anche quella relativa alle elargizioni di biglietti alla curva, che avrebbe portato alla pace nel derby. Io voglio crederci, non ho problemi. Certo è che dopo mesi di toni molto accesi, quella pace improvvisa con la curva rossonera è stata molto strana. Io non posso pensare che sia figlia soltanto di un trofeo Berlusconi vinto ai rigori e di una vittoria a Siena. No, noi facciamo i giornalisti, Carlo, e abbiamo un dovere nei confronti di chi ci ascolta, di chi ci legge, di chi ci guarda, comunque dell'opinione pubblica. Non possiamo passare sotto silenzio il fatto che 20 giorni prima delle lenzuolate mielose dell'ultimo derby, i tifosi erano fuori da Milanello a contestare con striscioni pesantemente, la proprietà, con striscioni, fumogeni e ammenicoli vari. Allora, deve essere successo qualcosa. Questo qualcosa non necessariamente è la vendita di biglietti o alcune concessioni, ma qualcosa deve essere successo, perché è impossibile che una vittoria a Siena per 2-1 e una vittoria ai rigori al trofeo Berlusconi abbia fatto cambiare idea a chi era andato a Milanello a contestare, obiettivamente. Andrea, invece, chiudendo sul campo, da dove ripartirà Leonardo? La mia impressione, guarda, la conosci molto meglio di me, la realtà Milan la vivi da vicino, però la mia impressione è che il gruppo storico, che è sempre stato il punto di forza di questa squadra, stia dando un po' dei cattivi segnali, da Seedorf in mutande alle reazioni di Gattuso, eccetera. Sono d'accordissimo con te, credo che Leonardo, cioè non vorrei veramente essere nei suoi panni, perché è al primo anno da allenatore, quindi ovviamente si deve fare le ossa, non ha l'esperienza di gestione dello spogliatoio che potrebbe poteva avere un Ancelotti o che può avere un Lippi, un Capello, eccetera. È ovvio, è all'inizio. Oltretutto si trova con una squadra che non ha voluto lui, perché non è stata costruita secondo i suoi suggerimenti tattici. E oltretutto si trova con una squadra il cui gruppo storico ha perso due figure fondamentali come Maldini e come Kakà, e ci aggiungo lo stesso Ancelotti, e non ha all'interno di questo gruppo storico un elemento che sappia catalizzare l'attenzione e fare il trascinatore, perché un conto è la goliardesca simpatia di Gattuso, un conto è la professionalità esibita di Seedorf, ma altro conto è trascinare la squadra. La squadra si trascina con l'esempio, la squadra si trascina con poche parole, come insegna Franco Baresi, o come insegnava, visto sì, che ricorrono i 20 anni dalla morte in questi giorni Gaetano Scirea, si insegna con il silenzio anche e con i fatti. E qui invece mi sembra che ci sia molta gente che parla, molta gente che ha reazioni isteriche, sì, ma con queste cose non si va da nessuna parte. Per questo io il Milan non lo metto tra le potenziali vincitrici dello scudetto, e mi scuserà Galliani che invece vede il Milan vincitore dello scudetto, possibile vincitore dello scudetto. Però prima di salutarti c'è un ascoltatore che mi chiede di girarti una considerazione sulla nazionale, su Lippi. Prima ho letto le dichiarazioni, Lippi che dice non frega niente a nessuno di noi, parlano tutti di altro, Mourinho, Santone, eccetera eccetera, di altri argomenti, mentre noi non ci si fila nessuno. L'ascoltatore mi chiede di girarti questa considerazione: finché rimarrà alla nazionale Marcello Lippi, credo che la maggior parte degli italiani non terrà per gli azzurri, me compreso. Tu vedi un problema di questo tipo? Cioè vedi un Lippi che ha perso molto appeal nei confronti dei tifosi italiani? Questo è possibile, io francamente però non lo capisco, cioè non capisco questo atteggiamento. Marcello Lippi è l'allenatore campione del mondo, e dal 2006, quando ha vinto nella notte di Berlino, al 2010, quando ci sarà la finale in Sudafrica, lui è l'allenatore campione del mondo. Non riesco a capire perché gli italiani si debbano fare del male e non tifare per l'Italia allenata dall'allenatore campione del mondo. Cioè, francamente, questo non riesco a capirlo, ma sai, noi italiani siamo abbastanza strani. No, non lo capiamo in due, anche se questa nazionale rimane sempre figlia di quel particolare momento storico, quindi... Certo. E quindi insomma il rapporto di questa nazionale, di Marcello Lippi, che ne è il simbolo, con gli italiani rimarrà sempre molto controverso, molto contraddittorio. Andrea, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, grazie, ciao. Davvero Andrea Schianchi. Dunque siamo ai vantaggi nel primo set di Italia-Bulgaria. Bulgaria 25 con il set ball, Italia 24, è l'esordio degli azzurri agli europei in Turchia. Ecco che torniamo, stanno cominciando ad arrivare i primi ascoltatori di oggi. Lorenzo d'Arezzo lo vedo già in linea, 800 24 00 24 è il numero verde. Siamo partiti da Fisichella che corona il suo sogno, abbiamo un po' discusso del momento del Milan, mentre continuano ad arrivare reazioni e dichiarazioni a questa notizia apparsa oggi su Repubblica, sotto un titolo che non lascia spazio ad equivoci, cioè Milan in vendita, la tentazione di Berlusconi in piano con Gheddafi per lasciare, poi le smentite decise da parte della Fininvest, da parte dello stesso Galliani. Ho diversi messaggi che vanno appunto dalla Formula 1 al calcio, ma vi voglio dare la notizia di cronaca che arriva dalla Turchia, con l'Italia della pallavolo che ha perso primo set con la Bulgaria, esordio per i nostri nell'europeo ad Istanbul, 26 a 24 per i bulgari, un'Italia che ha sofferto un po' soprattutto a Muro. Lorenzo d'Arezzo, buongiorno. Luca, sono Luca. Luca, benissimo. Luca, buongiorno. No, io volevo fare un intervento riguardo alla Fiorentina, ma volevo anche allacciarmi alla vendita del Milan, perché sì, non le sembra che queste notizie che compaiono su Repubblica si possono riallacciare anche ai noti problemi, diciamo, fra Repubblica, insomma, le querelle fra Repubblica e il Presidente del Consiglio. Non lo so. E dunque potrebbe esserci anche questo sfondo probabile. Sì, Lorenzo, però vorrei notare insieme a lei che non è la prima volta che escono voci, sempre smentite peraltro, voci, ma ne parlavamo prima con Andrea Schianchi, di una possibile cessione del Milan, vuoi agli arabi, vuoi ai petrolieri dell'est, ora questo contatto che sarebbe stato con Gheddafi, insomma non è la prima volta che escono voci di questo tipo e non solo da Repubblica, dunque io credo che a questi rumors ci si debba un po' abituare, nonostante ripetute smentite della Fininvest, però credo che discorsi di questo tipo continueranno a tornare. Prego. Sì, sono d'accordo anch'io e non ne facevo un discorso politico. No, ma nemmeno io. L'unica cosa che mi limito a osservare è che, e continuo a pensarlo, è che Berlusconi stia attentamente valutando, come è giusto che faccia, stia attentamente valutando i possibili effetti di un Milan non ai vertici italiani ed europei sulla sua immagine, su tutti i suoi impegni, su tutte le sue attività. È chiaro che il Milan è stato per Silvio Berlusconi uno strumento di potere anche, se vogliamo, ed è chiaro che un Milan che zoppica, un Milan che si attira le critiche, un Milan che non è più in grado di fare mercato, un Milan, come abbiamo visto quest'estate, in difficoltà sul mercato, non riesce a comprare un attaccante, poi l'attaccante arriva ma forse è quello sbagliato, e perché è stato comprato questo attaccante che alla fine non serve a questa squadra, insomma sono tutti discorsi collegati e credo non debbano essere sottovalutati. Prego. No, ma anche perché, fra l'altro, poi chiudo questa parentesi, anche se già lunga, è un Milan faraonico come gli anni passati. Appunto. In un momento di crisi magari potrebbe fare l'effetto contrario. Anche, naturalmente. Ma io volevo fare una breve considerazione sui Della Valle, sono tifoso della Fiorentina, e mi sembra che abbiano subordinato in maniera pesante il progetto sportivo, cioè con l'accesso in Champions League, al discorso della cittadella, al discorso edilizio politico della cittadella, perché ormai questo è chiaro che il mercato è fatto quest'anno molto deludente dal punto di vista sportivo, è un segnale, ecco, loro... È legittimo questo, però volevo una considerazione da lei. Sono imprenditori lungimiranti, seccamente. Ho visto quello che insomma hanno segnalato, sono anche un po', tra virgolette, dei ricattatori. Ecco, volevo una sua impressione. No, non saprei. Guardi, l'impressione che le posso dare io è che, non conoscendo i dettagli e le sfumature di questa vicenda, naturalmente ne ho sentito parlare come lei. Però se un imprenditore che si impegna nel calcio mette al centro dei suoi obiettivi, al centro dei suoi desideri, lo sviluppo di uno stadio di proprietà, è sempre lungimirante, perché è così, perché la Juventus è ripartita come caposaldo dalla costruzione di uno stadio, non si tratta di comprare un giocatore, due, tre, o di non comprarne. Si tratta di avere progetti di una gestione moderna del calcio, e una gestione moderna del calcio, a mio parere, non può che partire da impianti di proprietà e dall'utilizzazione di strutture che siano beni reali e non il valore di un giocatore che varia a seconda di un'annata positiva o negativa. Quindi poi lasciamo stare tutti i vari dettagli di questa vicenda che, ripeto, non conosco in maniera approfondita, però se un imprenditore calcistico mette al centro dei suoi desiderata uno stato di proprietà, non può che aver ragione, a mio parere. Claudio, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare una considerazione sempre sul Milan. Secondo me Berlusconi ha fatto bene, perché presidente comunque è sempre lui, anche se c'è Calvino, diciamo che il presidente è il titolare del Milan, è Berlusconi. Ha fatto bene a non spendere, sì, anche perché è stato portato a non spendere in questo momento di crisi, e mi immagino cosa sarebbe successo se Berlusconi avesse fatto quello che hanno fatto in Spagna, sarebbe stato lapidato da certi giornali, vedi Repubblica e altri giornali. E, secondo me ha una squadra non fortissima, ma che comunque dirà la sua su questo campionato, ne sono convinto, non sono milanista, non sono interista, non sono juventino, però ribadisco, ha fatto bene Berlusconi a comportarsi così, e piuttosto di avere una squadra, un'altra cosa volevo dire, il rapporto non idilliaco tra Lippi e gli italiani. Io faccio un'altra domanda, ma Lippi ha vinto sì il campionato del mondo, è giusto che se lo tenga stretto questo titolo, sì. Ma finito il campionato del mondo qualcuno mi spiega perché Lippi se n'è andato per poi ritornare a usurpare il posto a un altro allenatore? Perché questo è quello che pensano gli italiani. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei Claudio. Dunque, su Berlusconi ha fatto bene a non fare mercato, a fare il mercato che ha fatto quest'anno. Insomma, ne abbiamo parlato tantissimo quest'estate, non mi sembra quasi il caso di tornarci sopra, va benissimo. Come ho detto molte volte, va benissimo vendere cacao, va benissimo ripianare i buchi di bilancio, va benissimo immaginare una gestione più oculata di un club calcistico, va benissimo tutto. Ripeto, l'importante è essere chiari con i tifosi, essere chiari con quelli che vanno allo stadio e pagano il biglietto e lo pagano sul serio, non gli viene regalato come si dice sia avvenuto nel derby. Quindi va benissimo tutto, va benissimo gestire il club in un'altra maniera, però l'importante è appunto comunicare quali sono le strategie per il nuovo Milan, per lo sviluppo del club. Io mi tengo la mia idea, cioè fino a quando, che è poi non lontana da quella di Arrigo Sacchi, espressa molte volte, fino a quando il Milan avrà questo monte salari che costa come una squadra competitiva ad ogni livello, quando non lo è, fino a quando avrà questo monte salari, non potrà provvedere ad alcun tipo di rifondazione. Poi è altrettanto evidente che in caso di ristrutturazione, di rifondazione, di creazione di un nuovo Milan serviranno notevoli investimenti, perché i giovani bravi costano molto, lo sapete meglio di me. Su Lippi, ma non penso che abbia usurpato il posto a nessuno, penso semplicemente che l'avventura di Duradoni sia giunta con l'europeo a conclusione, se naturale e fino a che punto decidetelo voi, e sia stato richiamato Marcello Lippi. Non credo che abbia usurpato il posto a nessuno, insomma mi sembra che sia stato anche sufficientemente coerente con nel dopo mondiale. Sulle ragioni per cui ha lasciato sono grosso modo fatti suoi, anche se non sono difficili da immaginare. Roberto da Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo per Lippi, no? Prima stavate parlando che non è molto simpatico agli italiani, eccetera, eccetera, ma io penso che lui non faccia neanche niente per risultare simpatico, diciamo. E infatti si vede anche le convocazioni che fa, voglio dire, va controcorrente a tutto quello che pensa la gente, diciamo, perché anche in questo momento sta parlando dei giocatori, quelli, diciamo, tra parentesi, stranieri naturalizzati, che lui non vuole esagerare, ma io penso che un centrocampista come Thiago Motta il nazionale comodo. Lei cosa ne pensa? Ma lo penso anch'io, Roberto, lo penso anch'io. Io lo chiamerei subito uno come Thiago Motta. Se uno per la legge italiana ha la possibilità di essere chiamato e serve ed è funzionale a questo progetto, non vedo perché non chiamarlo, perché è nato da un'altra parte. Questo è quello che penso io. Però se Lippi ritiene di fare così, io credo che abbia tutto il credito necessario e sufficiente per provvedere in quella maniera. E anzi, lei dice si ostina a non chiamare i giocatori che tutti vogliono, ma fa benissimo, che lui è l'allenatore ed è giusto che abbia ampia libertà nel chiamare i giocatori che ritiene opportuni. Non vorrei solo che quel gruppo, quello dei campioni del mondo, fosse ancora un po' troppo pesante nel condizionare, ma nell'orientare le scelte di Marcello Lippi, che comunque fa benissimo ad andare avanti per la sua strada. Poi ci sarà un mondiale, vedremo quali saranno i risultati e valuteremo quei risultati. Dino, Torino, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono anch'io un tifoso italiano abbastanza deluso, no? Penso che quest'anno comunque ai mondiali faremo poca strada con una squadra così, visto e considerato anche il comportamento presuntuoso di Lippi, per il semplice motivo che non si guarda in giro anche di nuovi campioni, continua a tenere un organico di squadra che è quello dei mondiali, però c'è gente come Zambrotta, gente come Cannavaro, che ormai hanno una certa età, Camoranesi, e lui continua sempre con questo gruppo qua, addirittura 8-11esimi sono diventati la squadra della Juventus, sono diventati, forse lui pensa che così facendo, proponendo 8-11esimi di una squadra che poi in campionato sarà una delle più forti, sì, pensa forse di ovviare al gap che ci può essere con altre squadre come possono essere l'Argentina. L'idea dei blocchi non è inedita, ne sentiamo parlare dal blocco Juventus di Argentina 78, mi pare. Quindi l'idea dei blocchi che vengono trasferiti in azzurro lo è stato per il Milan, eccetera. L'idea dei blocchi non è inedita e di per sé non è neanche sbagliata. È chiaro che è una squadra che dovrà essere rinfrescata, ma credo che Lippi lo farà, tanto che mi risulta domani giocherà Giuseppe Rossi, che è stato inserito in pianta stabile da Marcello Lippi. Credo che Santon, se non sarà, al di là dei consigli di Mourinho, se non sarà titolare ai mondiali, poco ci manca. Io lo vedo titolare Santon ai mondiali su una fascia della difesa azzurra. Poi il resto lo vediamo. È chiaro che è una squadra che non può essere smontata e ricostruita ex novo a un anno dai mondiali. La squadra è questa. La forza dell'Italia ai mondiali di Germania fu proprio quella di essere una squadra e per quello di riuscire ad andare oltre le difficoltà che sembravano più grandi di lei. Vediamo. Secondo me arriveremo ai mondiali con alcune facce nuove tra i titolari di questa squadra. Dunque, diversi ascoltatori prima via SMS soprattutto mi hanno chiesto un ricordo dell'avvocato Gianluigi Porelli. Oggi è il giorno dell'addio all'avvocato Gianluigi Porelli. Allora, il ricordo da chi l'ha conosciuto molto meglio di me. Palla spicchi. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao coach. Gianluigi Porelli non è stato solo per molti anni il simbolo della Virtus, ma è stato uno dei padri della pallacanestro italiana. No, ed è stato anche quello che ti ha chiamato in Italia. Assolutamente, mi ha chiamato in Italia e come ho detto a tutti i giornalisti fatti da Bado Sport Italia dopo per parlare con lui questa sera alle 19, lui è quello che, quando io sono arrivato da lui nel 73, era un dilettante per mentalità, per sapere le cose. Lui in 5 anni mi ha trasformato da dilettante a vero professionista. Cioè, faccio un piccolo esempio. Primo anno ho detto una stupidità ai giornalisti, ok? Era stato stampato. Lui viene in ufficio il giorno dopo e dice: coach, tu hai detto questo? Ho detto: certo, perché? E lui dice: tu non puoi dire questo. Ho detto: perché no? Rubini lo dice sempre quelle cose. E lui dice: tu non sei Rubini, cioè mi ha messo al mio posto così, cioè tutta la cosa è durata, non so, neanche 20 secondi il tempo che ho raccontato qui, ma questo voglio dire di non essere Peterson un dilettante, dire le stupidità, pesa le parole, diventare professionista. E dopo diverse lezioni di questo tipo ho capito le cose, cioè non forse perfettamente, ma certamente mi ha portato in Italia e mi ha trasformato assolutamente, lo devo tutto. C'è una parola, no? Carisma. E poi ovviamente un giorno l'addio, fra l'altro il funerale è stato lunedì alle 10:30 in via Lame, proprio di fronte a casa sua. Noi parliamo di quello che ha fatto, ha fondato la Lega Serie A, ha fondato la ULEB, che ha fatto la Eurolega, cioè quello che ha fatto lui, non abbiamo tempo per elencare tutto, ok? Ma è anche un uomo di grande divertimento, ok? Cioè, mi ricordo che nel 76 abbiamo vinto lo scudetto a Varese, no? E lui diceva: ah, io sono un uomo durissimo, io non piango mai, non ho mai pianto, non piango mai. E io avevo quell'anno un contratto con un premio che lui non pensava mai di dovermi pagare, il premio di $10,000 per vincere lo scudetto. Poi vinciamo lo scudetto. E allora a Varese vinciamo la partita che vale lo scudetto, vale lo spogliatoio. Esco dallo spogliatoio, c'è lui in campo con altro dirigente Giancarlo Ugolini, anche lui che non piangeva mai, tutti e due piangendo come dei bambini. Oh Giancarlo, abbiamo vinto lo scudetto, Gigi, lo so, vedono me e non sto piangendo, ok? E Porelli immediatamente cambia atteggiamento. Non posso dire americano di merda in radio, però lo dico, ok? E lui mi dice: tu americano di merda, te ne frega niente dello scudetto, ti interessa solamente il premio, e se non fosse finita la stagione ti licenzierei. Questo era Porelli, ok? Io mi ricordo, poi ho tempo per un altro? Come no, coach. Ok. E allora andavo a pranzo ogni giorno con lui in foresteria, ok? Lui veniva da noi. E ogni sera andavamo al ristorante, Rodrigo, alla Badia, e Rodrigo era quello più importante. Allora, una volta al mese avevo un'idea, no? E dico, pure lì, ho un'idea. Poi ho esposto l'idea. E lui, anziché dire, no, coach, non va bene, si arrabbiava, ma con una violenza pirotecnica, capito? Allora, lì a Rodrigo, dove tutti i punti di forchetta, tutti pugno sul tavolo, forchette che volano, bicchiere che si rovesciano, tutti si fermano, i camionieri terrorizzati, tutti, cioè, e lui a voce alta, proprio al ristorante: tu sei pazzo, mentre io sono la Virtus, questo non passerà mai. Allora io dicevo, ok, no problem, va benissimo, ok. Perché conoscevo lui, ok? E lui va a casa, dorme la notte e ci vediamo il giorno dopo a pranzo. Sì. E io sono lì a tavolo e lui viene a pranzo e non parla, e poi mi guarda, poi non parla, e poi mi dice: coach, ho avuto un'idea. Era la mia idea, certo, della serata prima, molto meglio che pensato tutta la notte durante la mattina. Ero avvocato, lui molto. Allora io che suonavo lui, come dicevo io a lui, come uno Stradivario, che dicevo: pure lì, ottime idee, mi piace molto, grazie. Grazie. E quindi i ricordi che ho di lui sono quelli, e quello che lui... E uno, ho tempo per uno ancora? Sì, coach, aggiungendo che, insomma, senza voler essere retorici, insomma, personaggi così è difficile oggi trovarli. No, ma per favore, ti racconto uno, perché questo è per gli allenatori che ci ascoltano, ok? Il mio primo anno a Bologna, primo anno in Italia, primo anno a Bologna, prima esperienza, perdiamo le prime tre partite. E il resto di Carlino fa un articolo sulla partita di questa domenica contro la Pesaro, ok? Firmato Stefano Germano, che dice: oggi Peterson si gioca la panchina. Porelli viene in studio da me, in ufficio da me, con il resto di Carlino, e dice: coach, tu hai visto questo? Non l'avevo visto. Dice: no, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu perdi oggi, dice che la Virtus ti licenzia. E io dico: ah. E dice: io sono qui a dirti che anche se tu perdi oggi non sarai licenziato, sarai il nostro allenatore tutto l'anno, e sappi che dietro di te ci sono io, il cemento armato. E gli allenatori che stanno ascoltando, cosa non darebbero loro tutti per avere uno come lui, con il suo carisma, e tu hai detto la parola bellissima, perfetta per lui, e con questa decisione. E lui, grande chiarezza, grande, c'è, cioè, proprio ti diceva le cose proprio in faccia, ok? Una partita, l'anno che abbiamo vinto lo scudetto, il derby contro Nikolic, la Fortitudo, eravamo sotto 24-11, vinciamo a supplementare 84-81, e io ho fatto due o tre mosse, c'è, cioè, un po' discutibile, ok? Pure le passa giù per lo spogliatoio, passa me perché sta andando fino al corridoio per dare la mano a Nikolic, e mentre mi passa mi dice: tu sei pazzo! E va avanti. Perché avevo fatto queste cose? E poi lui si calma dopo, come era sempre. Ma era ogni giorno, e chiudo dicendo, ogni giorno con lui era come un semestre, sì, dell'università. Coach, potete raccontarmi tutto quello che volete, ma io rimango della mia idea. Cioè, sono le grandi società e i grandi dirigenti a fare i grandi allenatori. Di questo io rimarrò convinto finché campo. Poi gli allenatori bravissimi, tu sei stato un grande allenatore, vedo l'immagine di Ettore Messina. Però sono i grandi dirigenti a fare le grandi squadre, a fare grandi allenatori. Ma tu hai detto Messina, chi ha portato Messina a Bologna? Porelli. Certo. E l'ha lanciato quando Messina aveva, non so, 29 anni, hai capito? Cioè, quindi l'ha identificato come talento e l'ha lanciato, poi l'ha spalleggiato, e oggi abbiamo Ettore Messina. Io sono certo, se tu chiami oggi adesso Ettore Messina, ti dà le stesse cose che ho detto io. Senti, coach, abbiamo un ascoltatore con cui parlare, non so se voglia parlare dell'avvocato Porelli o se voglia parlare di altri argomenti cestistici, ma Walter da Mantova, prima di chiudere. Walter, buongiorno. Sì, mi dispiace per la scomparsa del... Purtroppo Walter da Mantova è caduta la linea con Walter. Coach, invece ti faccio ancora una domanda io. Stanno per cominciare gli europei. Quelli di pallavolo sono appena iniziati, almeno per l'Italia, 21 pari. Secondo set contro la Bulgaria dopo che abbiamo perso il primo. Quelli di basket stanno per cominciare, tutti a caccia della Spagna, di un grande allenatore come Sergio Scariolo. Mai come in questo caso ho avuto l'impressione di un europeo, non ti dico scritto, però con un favorito che non ammette tante repliche. No, caduta la linea anche con Coach Peterson. E vabbè, dai, non c'è problema. Finiamo qui con i saluti di Nico, che ringrazio, me lo facciamo volentieri sempre e comunque per i racconti di Coach Peterson, che oggi ci ha, insomma, è stato bello ricordare un grande personaggio in un evento, in un giorno difficile come questo. Ricordare con freschezza e con simpatia un personaggio che ha fatto grande la pallacanestro italiana come Gianluigi Porelli. Io rimango sempre convinto della mia idea, che va oltre l'ambito cestistico naturalmente, cioè sono le grandi società a rendere così grandi gli allenatori. Volevo darvi un ultimo parziale, che è questo su Italia-Bulgaria, partita combattutissima, si sta giocando il secondo set. Bulgaria 22, anzi ora 23, Italia 21, quindi Bulgaria a due passi dalla conquista del secondo set dopo aver vinto 26-24 il primo. Non partiamo favoriti in questo europeo, non partiamo favoriti in questa sfida con la Bulgaria, anche se ce la stiamo giocando fino in fondo. Domani pomeriggio, per parlare di pallavolo di europei, già ve lo dico, all'interno della nostra ora di programma, dalle 17 alle 18, ci sarà naturalmente Zorro, ci sarà naturalmente Andrea Zorzi per commentare questo europeo. Tra l'altro c'è anche l'europeo femminile, che parte, ci diceva proprio Andrea Zorzi, per noi sotto una stella un po' migliore. Intanto Bulgaria 23, Italia 22, si va ora al time out, 26-24 per i nostri avversari nel primo set. Io vi ricordo per il weekend, gli appuntamenti per il weekend: domani dalle 17 alle 18 saremo insieme, poi domenica dalle 17 alle 19, quando avremo il risultato dell'Italia in Georgia. Al di là delle dichiarazioni di Lippi, non frega niente a nessuno di questa squadra, noi giochiamo con la Georgia e vincendo queste due partite avremo già il visto per i mondiali. Dichiarazione di oggi di Marcello Lippi. Beh, vediamo se intanto vince la prima contro la Georgia del redivivo Calazze e di Hector Cooper, che ha già detto che un giorno o l'altro gli piacerebbe tornare all'Inter. Guardate un po'. Beh, domenica dalle 17 alle 19 avremo quello, avremo gli europei di pallavolo, avremo la corsa con Valentino Rossi che deve difendersi dagli assalti innanzitutto di Jorge Lorenzo. Insomma, tanti argomenti nonostante la Serie A in questo weekend sia a riposo. A domani dunque, grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadoni in regia.